Capitolo 23. Il parco. La mattina seguente scesi un po' prima delle 8, come seppi dal rintocco di un orologio lontano. Non c'era nessuna ombra di colazione. Aspettai un'ora prima che questa arrivasse, desiderando ancora vanamente di avere l'accesso nella biblioteca, e finito il pasto solitario, aspettai ancora circa un'ora e mezza, sentendo un grande scoraggiamento, incerta sul da fare. Finalmente arrivò Lady Ashby a darmi il buongiorno. Mi informò che aveva appena fatto colazione e ora desiderava fare una passeggiata mattutina con me nel parco. Mi chiese da quanto tempo ero alzata e alla mia risposta espresse gran dispiacere e mi promise di mostrarmi la biblioteca. Le consigliai di farlo immediatamente, così non avrebbe avuto più seccature di ricordarsi o di dimenticarsi. Acconsentì a patto che non mi fosse venuto in mente di leggere o sfogliare libri in quel momento, perché voleva mostrarmi il giardino e fare una passeggiata nel parco con me prima che la giornata fosse diventata troppo calda, la qual cosa si poteva quasi già dire, data l'ora. Naturalmente accettai volentieri e ci mettemmo subito in marcia. Mentre camminavamo nel parco chiacchierando di quel che la mia compagna aveva visto e appreso nei suoi viaggi, un gentiluomo a cavallo ci raggiunse e ci oltrepassò. Siccome nel passare si voltò a fissarmi in pieno viso, ebbi una buona occasione per osservarlo. Era alto, magro e smunto, con le spalle leggermente curve, la faccia pallida ma cosparsa di pustole e rossori sgradevoli, intorno alle palpebre, i tratti comuni e tutto un aspetto di languore e di volgarità messa in risalto da un'espressione sinistra della bocca e degli occhi, tristi e senza anima. «Detesto quell'uomo!» sospirò Lady Ashby in tono amaro mentre ci allontanavamo lentamente. «Chi è?» chiesi, non sospettando che parlasse in quel modo di suo marito. «Sir Thomas Ashby», rispose con una calma spaventosa. «E lo detesta, signorina Murray?» dissi io, poiché ero troppo scandalizzata per chiamarla col suo nome in quel momento. «Sì, lo detesto, signorina Grey, e lo disprezzo anche. Se lo conoscesse, non mi biasimerebbe. Ma lei sapeva chi era prima di sposarlo?» «No, non sapevo la metà di quello che è in realtà. So che lei mi aveva messa in guardia e vorrei averla ascoltata, ma è troppo tardi ormai per rimpiangere di non aver dato retta ai suoi consigli. Inoltre la mamma avrebbe dovuto sapere di più, sia di me che di lei. Invece non mi ha detto mai nulla contro di lui. Anzi, il contrario. E poi pensavo che mi adorasse, che mi lasciasse fare quello che volevo. Ha avuto l'aria di far così dal principio, ma ora non gli importa un bel niente di me. Però io non me la prendo per questo. Potrebbe fare quel che gli pare, purché io possa essere libera di divertirmi, stare a Londra, avere qualche amico qui. Egli invece può fare quel che gli pare, mentre io devo rimanere prigioniera e schiava». Ma appena si accorse che potevo divertirmi senza di lui, che altri riconoscevano il mio valore più di lui, quello spregevole egoista cominciò ad accusarmi di leggerezza e di spese folli e a dir male di Harry Meltham, a cui non è degno di lustrare le scarpe, e poi a sentire il bisogno di tenermi qui in campagna a condurre la vita di una nonna per timore che lo disonori e porti alla rovina. Come se egli non avesse fatto 10 volte peggio, con le sue scommesse, il suo tavolo da gioco, le ballerine dell'opera, con la sua Lady X e signora Y, sì, e le sue bottiglie di vino, e i suoi bicchieri di acquavite. Oh, darei 10.000 mondi per essere di nuovo la signorina Murray. È troppo doloroso veder vita, salute, bellezza consumate e distrutte per un bruto simile, esclamò scoppiando in un pianto accorato. Provai naturalmente molta pietà di lei, sia per il concetto falso che ella aveva della felicità e del dovere, che per il compagno miserabile a cui il destino l'aveva legata. Le dissi tutto quello che potei per confortarla e per offrirle i consigli che credetti più opportuni, raccomandandole prima di tutto di cercare di migliorare suo marito con la bontà, il ragionamento, l'esempio, la persuasione. E poi, quando avesse fatto tutto il possibile, se lo trovasse incorreggibile, perché cercasse di staccarsi da lui, chiudersi nella propria integrità, preoccuparsi di lui il meno possibile. L'esortai a trovare consolazione nel compimento del proprio dovere verso Dio e verso gli uomini, a porre fiducia nel cielo e a sollevare la sua pena, occupandosi della sua bambinetta, assicurandola che sarebbe stata ricompensata grandemente nel vederla progredire in vigore e saggezza e nel vedersi ricambiata dal suo affetto. «Oh, ma non posso dedicarmi tutta alla bambina», disse lei. «Può morire. La cosa non è impossibile. Ma con le cure molti bambini sono diventati donne e uomini robusti. Ma se diventasse così insopportabilmente simile a suo padre, la detesterei. Non è molto probabile, e una bambina assomiglia assai a sua madre. Oh, non mi importa, avrei preferito che fosse un ragazzo, soltanto che il padre non lascerà che quello che non gli sarà possibile dissipare. Che piacere posso avere nel vedere una femmina crescere per eclissarmi e godere quelle gioie da cui sono esclusa per sempre. Ma supponendo che sia così altruista da godere di questo, non è che una bambina. E io non posso concentrare tutte le mie speranze in una bambina. Questo è solo un po' meglio del dedicarsi a un cane. E quanto a tutta la saggezza e la bontà che ha cercato di instillarmi, sono certamente delle gran belle cose. E se avessi 20 anni di più potrei giovarmene. Ma dobbiamo pur goderci la vita finché siamo giovani. E se gli altri non ce lo permettono, ecco, non ci resta che odiarli. No, il miglior modo di essere felici è di comportarci bene e di non odiare nessuno. Lo scopo della religione non è di insegnarci come morire, ma come vivere. E più si progredisce in merito, più felicità ci si assicura. E ora, Lady Ashby, ho ancora un consiglio da darle, ossia che lei non si faccia una nemica di sua suocera. Non continui nel sistema di tenerla a distanza e di giudicarla con diffidenza gelosa. Io non l'ho mai vista, ma ne ho sentito dire sia bene che male. Immagino che, benché fredda e orgogliosa nella condotta in generale e perfino esigente nelle pretese, abbia forte affetto per quelli che sanno conquistarselo. E benché attaccata a suo figlio tanto ciecamente, non è certo sprovvista di buoni principi o incapace di capir ragione. Se lei la conciliasse un po', la trattasse in maniera amichevole, schietta e anche se le confidasse le sue afflizioni, delle vere afflizioni per cui ha il diritto di essere compianta, sono profondamente convinta che la diventerebbe per lei un'amica fedele e un conforto e un appoggio invece di essere l'incubo che mi ha descritto. Ma temo che il mio consiglio avesse poco effetto sulla sfortunata giovane signora e vedendo che potevo esserle di ben poca utilità, il mio soggiorno a Ashby Park diventò doppiamente penoso. Dovetti però rimanere quel giorno e il giorno seguente, come avevo promesso, resistendo dunque a tutte le minacce e le sollecitazioni a prolungare la mia visita, insistetti per partire la mattina del terzo giorno, dicendo che mia madre sarebbe stata sola senza di me e che aspettava il mio ritorno con impazienza. Comunque, col cuore pesante, diedi l'addio alla povera Lady Ashby e la lasciai nella sua casa principesca. Non era una prova trascurabile della sua infelicità che fosse disposta ad accettare la consolazione che le dava la mia presenza e desiderasse con ardore la compagnia di una persona che aveva gusti e opinioni così poco affini alle sue, una persona che aveva completamente dimenticato nei tempi di prosperità e la cui presenza sarebbe stata più una seccatura che un piacere se avesse potuto vedere realizzati la metà dei desideri del suo cuore. Capitolo 24. La spiaggia. La nostra scuola non era situata nel cuore della città. Entrandovi a nord-ovest c'è una fila di case di bella apparenza che fiancheggiano la strada larga e bianca con una piccola striscia di terreno coltivato a giardino dinanzi, le persiane alla veneziana, le finestre e una rampa di gradini che conduce a una porta elegante dai pomi di ottone. In una delle più grandi di queste case abitavamo io e mia madre, insieme alle signorine che i nostri amici o il pubblico pensavano bene di affidare alle nostre cure. Così si era a una notevole distanza dal mare e divise da esso da un dedalo di strade e case. Ma il mare era la mia delizia e spesso attraversavo la città per fare una passeggiata lungo la riva, sia con le allieve che sola con mia madre durante le vacanze. Era sempre bello per me, in tutte le ore, in tutte le stagioni. Ma soprattutto quando le onde erano mosse da un forte vento o durante la frescura incantevole delle mattine estive. Il terzo giorno, dopo il mio ritorno da Ashby Park, mi svegliai presto. Il sole scintillava attraverso le persiane e pensai quanto doveva essere piacevole attraversare la città ancora tranquilla e fare una passeggiata solitaria sulla spiaggia, mentre la maggior parte delle persone erano a letto. Non misi tempo in mezzo tra decidere e mettere in atto la decisione. Per non disturbare mia madre, scesi senza far rumore le scale e chiusi la porta piano piano. Suonavano le 6:15 che ero già vestita e fuori di casa. Provai un sentimento di freschezza e di vigore nell'attraversare le strade e quando fui fuori dalla città, quando calpestai coi piedi la spiaggia, fui in faccia alla baia ampia e scintillante, nessuna parola in grado di descrivere l'effetto dell'azzurro profondo del cielo e dell'oceano, lo splendore del sole mattutino, sulla barriera semicircolare delle rocce sovrastate dalle colline verdi e ondulate, e sulla riva dolce e spaziosa, e gli scogli bassi che emergevano dal mare con la loro rivestitura di erbe e muschio simili a piccole isole erbose, e specialmente lo scintillio spumeggiante delle onde. E poi, che purezza e freschezza incredibile nell'aria. C'era abbastanza caldo da far apprezzare l'effetto della brezza e abbastanza vento da tenere tutto il mare in movimento e da scagliare le onde sulla costa spumanti e impetuose con un'allegria selvaggia. Null'altro si muoveva. Nessun essere vivente si scorgeva oltre me. Le mie orme erano le prime a imprimersi sulla sabbia. Nulla l'aveva calpestata da quando la marea nascente dell'ultima notte vi aveva cancellati i segni più profondi del giorno avanti e l'aveva lasciata liscia e pura, fuorché dove il mare, ritirandosi, aveva lasciato indietro tracce di pozze increspate e piccoli rigagnoli. Rinfrescata, deliziata e rianimata, incominciai a camminare lungo la spiaggia, dimenticando tutti i miei affanni, sentendomi quasi le ali ai piedi, in grado di fare perlomeno 40 miglia senza stancarmi e provando un senso di esaltazione che non avevo più provato dai giorni della mia infanzia. Verso le 6:30 degli stallieri cominciarono a scendere per far prendere aria ai cavalli padronali, prima uno, poi due, finché vi furono una dozzina di cavalli e 5 o 6 cavalieri. Ma questo non mi disturbava perché non sarebbero giunti fino alle basse rocce a cui mi stavo avvicinando. Quando l'ebbi raggiunte, mi misi a camminare sulle erbe marine, viscide e sdrucciolevoli, col pericolo di scivolare in una delle molte pozze d'acqua salata che si erano formate fra esse, fino a un piccolo promontorio coperto di muschio e bagnato dagli spruzzi dell'acqua. Lì mi voltai a guardare indietro per vedere se scorgevo qualcun altro. C'erano ancora gli stallieri di prima con i loro cavalli e un signore con un cagnolino chiazzato di scuro che gli correva avanti e un carro serbatoio che veniva dalla città per caricare l'acqua per i bagni. Dopo un minuto o due i lontani serbatoi dell'acqua cominciarono a muoversi e allora i vecchi signori, dalle abitudini regolari e le pie quacchere, avrebbero cominciato a fare la loro salubre passeggiata mattina. Ma per quanto interessante potesse essere questa scena, non potevo esserne spettatrice perché il sole e il mare mi abbacinavano talmente gli occhi in quella direzione che non potevo rivolgervi più neppure uno sguardo. E allora mi voltai di nuovo per godere la vista e il frastuono del mare che si infrangeva contro il promontorio con violenza straordinaria, perché i flutti erano spezzati da grovigli di erbe marine e dagli scogli sott'acqua, altrimenti ben presto sarei stata inzuppata dagli spruzzi. Ma la marea era cominciata, l'acqua si innalzava, insenature e bacini si riempivano, i ruscelli si allargavano. Era tempo di trovare un terreno più sicuro su cui camminare. Così, con salti e slittamenti, tornai sulla spiaggia soffice e larga e decisi di continuare a camminare al sicuro sulle balze e poi far ritorno a casa. A un tratto sentii fiatare dietro di me e poi un cane arrivò fino ai miei piedi saltellando e scodinzolando. Era il mio Snap, il piccolo terrier scuro dal pelo ispido. Quando lo chiamai per nome, cominciò a far salti in direzione del mio viso e ad abbaiare festosamente. Quasi felice come lui, presi in braccio la bestiola e la baciai più volte, ma come mai si trovava lì? Non poteva essere caduta dal cielo o aver fatto tutta la strada da sola. Doveva essere stato il suo padrone, l'acchiappatopi o qualche altro a portarlo. Così, frenando le mie carezze inconsulte e cercando di frenare anche le sue, mi guardai intorno e chi vidi? Il signor Weston. Il mio cane la ricorda bene, signorina Grey, disse prendendomi calorosamente la mano che gli offrivo, senza sapere chiaramente quel che facevo. Lei si alza presto. Non sempre presto come oggi, risposi, cercando di ricompormi, considerando tutte le circostanze del caso. Dov'è diretta la sua passeggiata? Oh, beh, pensavo di ritornare. Deve essere quasi ora, credo. Guardò l'orologio, un orologio d'oro nuovo, e mi disse che erano solo le 7:05. Ma senza dubbio lei ha già fatto una lunga passeggiata, disse, volgendosi verso la città, a cui con lentezza ora dirigevo i miei passi. Egli si mise al mio fianco. Da che parte della città abita? Chiese. Non ho mai potuto scoprirlo. Non l'aveva mai potuto scoprire. Allora aveva cercato di scoprirlo. Gli dissi dove si trovava la nostra casa. Mi chiese come andavano i nostri affari. Gli risposi che si mettevano molto bene, che dopo le vacanze di Natale erano aumentate di parecchio le nostre alunne e che aspettavamo un altro aumento del numero alla fine delle vacanze in corso. Lei deve essere un'educatrice bravissima, osservò. Oh no, lo è mia madre, risposi. Sa dirigere le cose molto bene ed è attiva, abile e buona. Mi piacerebbe conoscere sua madre. Me la presenterà una volta o l'altra se verrò a farle visita. Oh sì, volentieri. E mi permetterà il privilegio che si concede a un vecchio amico di venire a trovarla di tanto in tanto? Sì, se... suppongo di sì. Era una risposta molto sciocca, ma era la verità, perché pensavo che non avevo nessun diritto di invitare una persona in casa di mia madre prima che ella la conoscesse, e se avessi detto sì, se mia madre non ha nulla in contrario, sarebbe sembrato che dessi alla sua richiesta un peso maggiore di quel che c'era da aspettarsi. Così, supponendo che ella non avrebbe avuto nulla in contrario, avevo aggiunto, suppongo di sì, ma naturalmente avrei detto qualcosa di più carino e gentile se fossi stata completamente padrona di me. Per un minuto continuammo a camminare in silenzio, che fu tuttavia, non senza mio grande sollievo, interrotto dal signor Weston con delle osservazioni sulla limpidezza della mattina e sulla bellezza della baia, e poi sui vantaggi che, a preferenza di molti altri posti di ritrovo alla moda, possedeva la cittadina. Lei non mi chiede che cosa mi porta qua, disse. Non può supporre che sia abbastanza ricco da venirci per mio diletto. Ho sentito che aveva lasciato Horton. E non ha sentito che ho tenuto un'altra parrocchia in un villaggio lontano da qui circa 2 miglia? No, dissi. Viviamo così completamente fuori dal mondo anche qui che le notizie raramente mi raggiungono da qualche punto cardinale, fuorché per mezzo della Gazzetta. Ma spero che la sua parrocchia nuova le piaccia e che possa congratularmi con lei dell'acquisto. Spero che la mia parrocchia sarà migliore fra un anno o due, quando avrò attuato alcune riforme che ho in programma, o almeno avrò compiuto qualche passo verso questo scopo. Ma ora si può congratulare con me, perché trovo che è una cosa splendida avere una parrocchia tutta per me, senza nessuno fra i piedi che ostacoli i miei piani e paralizzi i miei tentativi. E poi ho una casa decorosa, in una località abbastanza bella, e 300 sterline all'anno. In conclusione, ho solo la solitudine di cui lamentarmi e niente altro che una compagna da desiderare. Egli mi guardò, finendo il discorsetto, e il lampo dei suoi occhi scuri si fermò sul mio viso in fiamme, con mia grande mortificazione, perché non riuscii in quel momento a superare la confusione. Quindi, per rimediare al male, mostrai tutta la mia intelligenza con una risposta precipitosa e infelice per dirgli che, se avesse aspettato di essere ben conosciuto nei dintorni, poteva avere numerose occasioni per rimediare alla sua mancanza fra le abitanti della parrocchia, e vicinanze o le conoscenze qui nella mia cittadina, se gli occorreva così ampia scelta, non rendendomi conto del complimento implicito che gli facevo con tale affermazione finché non me lo chiarì la sua risposta. Non sono così presuntuoso da crederlo, disse, benché lei me lo dica. Ma se fosse così, sono piuttosto difficile nelle mie esigenze di una compagna per la vita, e forse non troverò una che faccia per me fra le signorine che lei nomina. Oh, se cerca la perfezione, non la troverà mai. No, non ho nessun diritto di esigerla, essendo io ben lontano dall'essere perfetto. E qui la conversazione fu interrotta da un carro serbatoio che ci passò pesantemente a fianco, perché eravamo ormai giunti nella zona più frequentata della spiaggia. E per 8 o 10 minuti, fra carri e cavalli e asini e uomini, non vi fu possibilità di continuare la conversazione, finché non voltammo la schiena al mare e non cominciammo a salire la strada ripida che conduceva in città. Qui il mio compagno mi offrì il braccio, che accettai, benché non con l'intenzione di usarlo come appoggio. Non viene spesso sulla spiaggia, credo, disse, perché ci sono stato molte volte a passeggiare, sia di mattina che di sera, da quando sono arrivato, e non l'ho mai vista. E diverse volte, anche attraversando la città, ho cercato la vostra scuola, ma non pensai alla vostra via. E una volta o due ho domandato, ma senza ottenere l'informazione richiesta. Superata la salita, volli ritrarre il mio braccio dal suo, ma con una leggera pressione del gomito egli mi fece capire tacitamente che tale non era il suo volere, e di conseguenza lasciai fare. Parlando di diversi argomenti, entrammo in città e attraversammo parecchie vie. Vidi che, pur di accompagnarmi, si allontanava dalla sua strada, nonostante il lungo cammino che ancora l'aspettava, e temendo che fosse che forse si disturbasse per ragioni di cortesia, osservai: temo di portarla fuori di strada, signor Weston. Credo che la via che porta alla sua parrocchia sia proprio in direzione opposta. La lascerò alla fine della prossima via, disse. E quando verrà a vedere la mamma? Beh, domani, se a lei piace. La fine della strada seguente era quasi il termine della mia passeggiata. Egli si fermò, mi diede il buongiorno e chiamò Snap, che corse un po' incerto se seguire la sua vecchia padrona o il suo padrone nuovo, ma che sgambettò via dopo essere stato sollecitato da quest'ultimo. Non le dico di volerglielo ridare, signorina Gray, disse il signor Weston sorridendo, perché mi sono affezionato. Oh, non ne sento il desiderio, risposi. Ora che ha un buon padrone, sono completamente soddisfatta. Allora, tengo per detto che sono un buon padrone. L'uomo e il cane si allontanarono e io ritornai a casa col cuore gonfio di gratitudine verso il cielo per tanta grande felicità e pregando che le mie speranze non fossero deluse di nuovo. Capitolo 25. Conclusione. Ma Agnes, non devi fare di nuovo delle passeggiate tanto lunghe prima di colazione, disse mia madre osservando che prendevo una seconda tazza di caffè e non mangiavo nulla, attribuendolo al caldo della stagione e alla stanchezza della mia lunga passeggiata. Certamente mi sentivo febbricitante e stanca. Tu non hai mai la giusta misura, figlia. Se ti contentassi metodicamente di una passeggiata breve ogni mattina, questo sì ti farebbe bene. Allora la farò, mamma. Ma in questo modo è peggio che stare a letto curva sui libri, ti sei fatta venire la febbre. Non desidero farlo più, mamma, dissi. Stavo arrovellandomi il cervello pensando come dirle del signor Weston, poiché doveva sapere che sarebbe venuto l'indomani. Aspettai che fosse sparecchiata la tavola dalla colazione e che io avessi acquistato maggior calma e fermezza, e poi, sedutami al mio lavoro di disegno, cominciai. Oggi, mamma, ho incontrato un vecchio amico sulla spiaggia. Un vecchio amico? E chi può essere? Anzi, due vecchi amici. Uno era un cane. E allora le parlai di Snap, la cui storia già le avevo raccontato, e le riferii la sorpresa della sua comparsa improvvisa e del riconoscimento. E l'altro, continuai, era il signor Weston, il coadiutore di Horton. Il signor Weston? Non ti ho mai sentito parlare di lui. Ma sì, l'ho nominato diverse volte, credo. Ma tu non lo ricordi. Ti ho sentito parlare del signor Hatfield. Il signor Hatfield era il parroco e il signor Weston il coadiutore. Di solito lo ricordavo in contrapposto al signor Hatfield perché come uomo di chiesa valeva molto di più. Ebbene, questa mattina gli era sulla spiaggia insieme al cane. L'ha comperato, immagino, dall'acchiappatopi e mi ha riconosciuto probabilmente per merito del cane. Abbiamo conversato un po' insieme e così mi ha chiesto della nostra scuola e sono venuta a parlare di te, di come conduci bene le cose e lui mi ha detto che gli piacerebbe conoscerti e mi ha chiesto se può fare la tua conoscenza. Se si può permettere di venire domani, così gli ho detto di sì. Ho fatto bene? Beh, naturalmente. Che genere di uomo è? Oh, un uomo certo molto rispettabile, mamma, lo vedrai domani. È il nuovo vicario del paese qua vicino e siccome è qui da sole poche settimane, credo che ancora non abbia amici e desideri un po' di compagnia. Il giorno dopo finalmente arrivò. Con che febbre di ansia e di incertezza vissi dalla mattina fino al pomeriggio quando egli fece la sua comparsa. Lo presentai a mia madre, mi misi con un lavoro accanto alla finestra e rimasi ad aspettare il risultato della visita. Con mia grande soddisfazione si affiatarono, perché mi ero sentita molto inquieta su quello che mia madre avrebbe pensato di lui. Quella volta non rimase a lungo, ma quando si alzò per salutare, ella disse che sarebbe stata felice di rivederlo tutte le volte che gli fosse piaciuto di farle una visita, e quando fu partito, fui contenta di sentirla dire. «Certo, è un uomo molto sensibile. Ma perché ti sei seduta là dietro, Agnes?» aggiunse, «e hai parlato così poco». «Oh, perché parlavate così bene, mamma, che ho pensato che non aveste bisogno di nessun aiuto da me. Inoltre è venuto a trovare te e non me». Da allora egli venne a trovarci diverse volte alla settimana. Di solito rivolgeva la parola a mia madre e non c'è da meravigliarsi perché ella sapeva conversare. Io quasi invidiavo la disinvoltura e la vivacità delle sue chiacchierate e il gran buon senso di ogni cosa che diceva. Eppure Benché di tanto in tanto soffrissi di questa mia deficienza, provavo un piacere immenso a stare a sentire due persone che amavo e stimavo sopra tutte al mondo conversare insieme con tanta affabilità e saggezza. Non sempre, però, rimanevo silenziosa ed ero trascurata, anzi ero tenuta in considerazione come desideravo. Non mancavano nei miei confronti le parole dolci e gli sguardi ancora più dolci e le attenzioni delicate, troppo fini per essere espresse a parole, ma che mi scendevano dirette al cuore. Ben presto le cerimonie furono abolite fra noi. Il signor Weston arrivava come un ospite aspettato, sempre ben accetto, e che non turbava mai l'andamento dei nostri affari domestici. Mi chiamò Agnes. Dapprima questo nome fu pronunciato con timidezza, ma vedendo che non mi offendeva, sembrò preferire questo appellativo a quello di signorina Gray, e io fui dello stesso parere. Com'erano lunghi e grigi i giorni in cui non arrivava. Tuttavia non tristi, perché avevo il ricordo dell'ultima visita e l'aspettativa della prossima che mi avrebbe rallegrata. Ma quando passavano 2 o 3 giorni senza vederlo, certamente mi sentivo molto agitata. Assurdamente, irragionevolmente agitata, perché naturalmente aveva il suo lavoro e la parrocchia a cui attendere. E temevo la fine delle vacanze, quando sarebbe incominciato anche il mio lavoro, e qualche volta non mi sarebbe stato possibile vederlo, e qualche volta, se mia madre era occupata nella sala studio, sarei stata costretta a rimanere sola con lui. Non desideravo affatto tale situazione, stando in casa, mentre avevo trovato tutt'altro che spiacevole incontrarlo fuori e camminare al suo fianco. Una sera dell'ultima settimana di vacanze, egli arrivò non aspettato, poiché un gran temporale che si era prolungato tutto il pomeriggio aveva quasi distrutte le mie speranze di vederlo per quel giorno. Ma ormai l'acquazzone era cessato e il sole brillava smagliante. «È una bella serata, signora Gray», disse entrando. «Vorrei, Agnes, fare una passeggiata con lei fino all'altura della costa. Questa che si eleva sul mare arditamente sopra un precipizio, dalla cui cima dovrebbe esserci una vista stupenda. La pioggia ha distrutto la polvere, rinfrescato e purificato l'aria, e il paesaggio sarà magnifico. Vuol venire? Posso andare, mamma? Oh sì, certo. Andai a prepararmi e scesi dopo pochi minuti, benché naturalmente avessi preso più cura del mio aspetto esteriore che se fossi stata per andare da sola in giro per le compere. Dopo il temporale, il cielo si era rischiarato meravigliosamente e la serata era incantevole. Il signor Weston mi prese a braccetto. Parlò poco mentre passavamo per le vie affollate, ma camminava molto in fretta, con un'aria seria e distratta. Mi chiedevo che cosa lo turbasse e provai una paura vaga che avessi in animo qualcosa di spiacevole. E le supposizioni che vi ricamavo intorno mi inquietavano non poco e mi rendevano seria e silenziosa. Ma queste fantasie svanirono appena raggiungemmo i limiti più tranquilli della città, appena potemmo vedere la venerabile chiesa e le alture con lo sfondo del mare azzurro intenso, il mio compagno diventò abbastanza gaio. Temo di aver camminato troppo in fretta per lei, Agnes, disse. Nella mia impazienza ho dimenticato di doverle riguardo, ma ora possiamo camminare adagio come vogliamo. Vedo da quelle nuvole luminose verso occidente che ci sarà un bel tramonto e faremo in tempo a osservarne l'effetto sul mare, man mano che il sole tramonta. Quando avemmo raggiunto la metà circa dell'altura, rimanemmo di nuovo in silenzio, che come al solito fu lui il primo a rompere. La mia casa è sempre solitaria, signorina Gray, osservò sorridendo. E ormai ho fatto conoscenza con tutte le signorine della mia parrocchia, con altre di questa città e anche con molte altre che conosco di vista o di fama, ma nessuna è fatta per me. C'è un'unica persona al mondo che è fatta per me ed è lei, e desidero sapere il suo parere. Dice sul serio, signor Weston? Sul serio? Come potrebbe credere che io scherzi su una cosa simile? E teneva la sua mano nella mia che poggiava sul suo braccio. Doveva averne sentito il tremito, ma ormai questo non aveva grande importanza. Oh, spero di non essere stato troppo precipitoso, disse con voce seria. Deve ormai sapere che non è mia abitudine adulare e dire sciocchezze tenere e neppure esprimere l'ammirazione che sento, e che una sola mia parola o un mio sguardo vale di più delle frasi smielate o delle dichiarazioni bollenti della maggior parte degli altri uomini. Dissi qualcosa sul fatto che non desideravo lasciare mia madre e che non avrei fatto nulla senza il suo consenso. Ho sistemato tutto con la signora Gray mentre lei si metteva il cappello. Disse che mi avrebbe dato il suo consenso se sua figlia mi avesse detto di sì. E le offrì, nel caso che fossi così fortunato, di venire a vivere con noi, perché ero certo che sarebbe stato meglio. Ma ella rifiutò, dicendomi che ora poteva prendere un assistente e continuare la scuola finché non avesse raggiunto una rendita che bastasse a mantenerla in una comoda abitazione. E nel frattempo avrebbe diviso le sue vacanze fra noi e sua sorella e sarebbe stata ben contenta che lei fosse felice. E così ho messo a tacere le sue difficoltà. Ne ha qualche altra? No, nessuna. Mi ama allora, disse stringendomi la mano con passione. Oh sì, e qui mi fermo. Il mio diario da cui ho compilato queste pagine va solo poco più in là. Avrei potuto continuare per anni, ma mi bastava aggiungere che non dimenticherò mai quella stupenda sera estiva e ricorderò sempre con piacere l'altura scoscesa e l'orlo del precipizio dove rimanemmo insieme, aspettando che il tramonto superbo si specchiasse nel mondo turbolento delle acque ai nostri piedi, col cuore colmo di gratitudine verso una felicità e un amore troppo grandi per parlare. Alcune settimane dopo, quando mia madre si fu provvista di un assistente, diventai moglie di Edoardo Weston e non ebbi mai ragione di pentirmene, e sono certa che così sarà per il futuro. Abbiamo avuto tribolazioni e sappiamo che dobbiamo averne ancora, ma le sopportiamo insieme con coraggio e cerchiamo di fortificarci l'un l'altra in vista della separazione ultima, il più grande di tutti i dolori per chi rimane. Ma se indirizziamo il pensiero al cielo glorioso che è al di là, dove forse tutti e due ci incontreremo e non c'è peccato né pena, anche questo certamente si potrà sopportare. E intanto dobbiamo vivere per la gloria divina che ha disseminato tante benedizioni sui nostri passi. Edoardo, con sforzi poderosi, ha attuato delle riforme prodigiose nella sua parrocchia ed è stimato e amato da tutti i suoi parrocchiani come merita, perché se forse avrà dei difetti come uomo, e nessuno ne è esente, sfido chiunque a biasimarlo come parroco, marito o padre. I nostri figli, Edoardo, Agnese e la piccola Maria, promettono bene. La loro educazione, frattanto, è affidata soprattutto a me ed essi non mancano di nessuna possibile cura materna. Le nostre modeste entrate sono più che sufficienti ai nostri bisogni e applicando l'economia imparata in tempi difficili e non cercando mai di imitare i nostri vicini più ricchi, riusciamo non solo a vivere con comodità e agio, ma ad avere ogni anno qualche cosa da mettere da parte per i nostri figli e qualcosa da dare ai bisognosi. E con questo, ora, credo di aver detto abbastanza. Fine.